vorrei dire che l'incidente è molto più grave di quello che noi pensavamo all'inizio, questo lo possiamo senz'altro dire, ed è di una gravità tale che l'autorità francese per l'energia, per la sicurezza sull'energia atomica ci dice, loro ce lo dicono, che sono quelli che fanno più centrali al mondo sostanzialmente, che si tratta di un livello di incidente 5 o 6, mentre fino a ieri si era dato per sicuro un livello 4, la differenza lì, lo sapete, è inutile che la starò a ricordare, ma insomma, mai in ordine di gravità crescente, 7 è quello di Chernobyl, 4 è quello che si era dato all'inizio, 5 o 6 potrebbe essere prima dell'Island, sì. Poi vediamo. Però quello che è vero è che io ho davanti un commento riportato da Daily Yomiuri, che è uno di questi siti che riporta le affermazioni di TEPCO, cioè dell'agenzia che fa l'energia elettrica in Giappone attraverso il nucleare, ci dice che, leggo testuale, fuel roads, cioè le barre di combustibili, fully exposed, cioè completamente esposte. Questo Rigotti, ne abbiamo parlato anche ieri sera, sa benissimo che cosa significa, cioè quando c'hai un'esposizione di quel tipo, il processo di fusione, quello più temuto di tutti, la fusione del nocciolo, è una cosa che va paventata, perché effettivamente vuol dire che, come diceva Rigotti del resto, è fuori controllo. Allora, di fronte a questo, questa è la mia considerazione, possibile che a nessuno gli venga in mente in Italia, di coloro che sostengono un programma nucleare futuro, non dico di fermarlo, questo, ma di fermarsi a riflettere, quello magari sì, facendo, non so, si possono organizzare conferenze di studio, approfondimento, insomma quello che volete. Se la Svizzera decide di non fare più centrali, la Germania ne chiude due e decide di non prolungare la vita di quelle più vecchie, l'Austria non ce l'ha, il Portogallo non ce l'ha, la Grecia non ce l'ha, questa, vabbè, l'avevamo già visto, e altri si mettono a dire che, insomma, bisogna pensarci un attimo. Se gli stessi francesi ci dicono che addirittura l'EPR ha un sistema di sicurezza, cioè quelle che vorremmo costruire noi, hanno sistemi di sicurezza che non sono ottimamente congegnati, nessuno potrà pretendere che il rischio sia zero. Ma gli impianti industriali nucleari sono diversi dagli altri, non è che sono come gli altri, anche